certo, ma va bene, non voglio dire, non è esatto che ho fatto in Spagna. Non ho capito. Il disastro che ha fatto in Spagna, Otto. Aspetta un attimino, eh. Un secondo che mi metto le cuffie perché quello suo, il caporaggio suo fa schifo. Ecco, ci sto, buonasera. Ehi. Stavo dicendo, il disastro che ha fatto in Spagna. Buonanotte, non ho capito. Che ha fatto in Spagna? Esatto, come ha fatto in Italia. Allagamenti che tu venne. E adesso l'ha fatto in Spagna. Catta, una vostra barobbi, non lo. Vabbè, dammi, ma ce ne tutti accumulati, tutti, tutti cavaterra, i carinati, cani uno sopra l'altro. Peggio di Italia ha fatto. Quando vengo queste cose, per carità, sicura capiboni. Cazzo, in Italia ogni volta, ma hai visto, dappertutto sto facendo danno, ma danno però è, danno incalcolabile, si può immaginare. Il tempo, lo sacro, queste cose così temporali, si distrugge tutta l'Italia, per carità. Fanno dappertutto, insomma, non è solo in Italia, dappertutto fanno, cazzo. La Cina, non hai visto cosa ha fatto la Cina il mese scorso? In tutti i posti è così, in tutti i posti. Purtroppo non ci serviamo più in nessun luogo. Allora, per carità, via. Un macello è. Come sono quasi le persone, sono quasi il tempo anche, il clima, cazzo, per carità, non se ne capisce più niente, stiamo andando e peggiorando tutti gli anni, davvero. A pensare che la Sicilia a secco, cazzo, ma come fanno cazzo, a quelli lì senza acqua a tutto? Non ne hanno nulla, cazzo, hai visto tutto a secco. Purtroppo, quella è colpa loro anche, che invece di investire soldi e cose, non pensano che si gozi, ecco cosa è. A fare delle righe, delle cose, nulla, non gliene frega nulla a quella gente, quindi ecco qua cosa gli succede. Perché quelli cercano di incassare i soldi a mettersi da parte, capito? Cazzo, se no tutta la sede degli altri. È così, specialmente in quelle zone, per carità, uno più mafioso dell'altro, cazzo, fanno quello che vogliono, Cazzo, e la gente, cazzo, morendo di sete, che si fa a me. Ma è inutile di fare di là, che non va a ballavarti, e Fabi. Ecco cos'è. Ma quelli che hanno i soldi alla trova, in modo da poter avere tutto quello che vogliono, con i soldi fa tutto quello che vogliono. Se non c'è il punto, ad abbono per avvalgirli, a credenà, non è sempre di virare, no. Credenà fece ne da voi. Noi siamo male, non abbiamo nulla, davvero, né chi mangiare, né chi bì. Va brutta, ma quella brutta c'è da voi. Infatti è così. Sto facendo vedere. L'Italia è più bassa di tutti come economia. Io non lo sapevo. Perché non lo sappiamo sto. Cazzo, fino a poi non c'è mai niente, cazzo. Capito? Fino a poi non c'è mai niente, cazzo. Noi, per carità, cazzo. Vai tra tutti i politici, cagata, e fare lo stupendo tranquilli. Vediamo che si varia nel burruente, così, se no non si no ciambali. La destra è peggio della sinistra, la sinistra è peggio della destra, quindi usano i soluenti cosa c'ho, delinquenti e bu. Perché dico, cerco a incassare uno più dell'altro, capito? Non si va mai da riuscire, dottor. fino a poco di saiette, capi dalla parte, capi dall'altra, ma hai visto che sta rifatto la parte di giro per la cazza, quindi l'ha ricavata a più, cazza, meno male che sono riuscito a scapparli. Delinquente ve ne sono bene, compreso, i delinquenti ve ne sono bene, pensano a fare di là, pensano a fare, a furare da botteganti. Ma quelli fanno quello che vogliono, so, loro fanno tutto quello che vogliono, c'hanno la cazza, c'hanno il coltello a parte del mare con loro, per cui fanno tutto quello che vogliono, capito? Perché sono loro stessi che fanno le leggi, per loro però, non per i poveri, cazzo, e noi morire di fame, so. Ma si arriva, prima o poi la si tributa nei buraghi, sì. Come coppa, ci ha fatto che degli erani, si scende di quella... cose dai computer da una parte all'altra, la ciappa da lì sono la ciappa all'altra il buco. Ma che la ciappa cosa fate? Cazzo, tra mezzo avvocati, pacchietti, fare di nada, un cosa all'altro, non vi fate niente, sto, cazzo. Tanto per tirarsi la condanna così e basta, ma tanto mangiare il bici la faccia di chi non lo può vedere. Per carità, cosa... In Italia cosa è che ha da avere? Manco la legge che ha da avere. Perché sono le leggi se ne fanno per loro, non per il pubblico. Non se ne fa... Tanto già fa ammazza di draedi, si ammazzano, quindi dice che stanno già così andando in vento. Hai visto cosa fanno all'ufficio delle tratte, so? Ma hai visto cosa fanno all'ufficio delle tratte? Lo sto controllati, stanno tutto davanti, per cui fanno quello che vogliono, capito? Io c'era me... Nel mese di fine agosto c'ero lì, non sono riuscito a fare tutto, però una signora che mi conosceva e mi ha aiutato, questa signora mi ha aiutato. Anche a noi ci ha aiutato la signora, prima si è andato da uno e chi se non si è fatto niente, non si è fatto niente. Andiamo da tramite la guardia, una guardia, aspetti che parla un amico mio, è andata, mi ha chiamato, ha avuto tutta la ragione, dice è strano però che l'abbia fatto tutto lui, dice aspetti, già ci penso io, ha fatto tutto con la signora anziana, ragazzi, e ancora la ringraziamo, cazzo, a me ne vorrei avuto un punto di dirà. No, a me sono andato io al catasto, all'ufficio entrate, che come sono entrato c'era questa signora, mi ha aiutato Eda, e me l'ha fatto Eda Rufuglio, perché mi serviva il foglio per l'ENE, e mi ha fatto tutto Eda, se no non aveva cavato bene. Cazzo, ma per il suo me che se la fucile, capito? Sono parecchi se la fregano, invece se avrebbero fatto il lavoro giusto come bisogna farlo, sarebbe stata la cosa utile, invece non se ne fanno, evidentemente hanno qualche interesse e so. Deve essere. L'unica cosa che ha già fatto, ma già mi ha fatto il cercano, se lo conservi il foglio lì, lo manda via e lì, se lo conservi è così. Per quando glielo chiedono ce l'ho già. Infatti faccio così. Io quando avevo la Super 5, la Renault, che mi è toccato, che hanno trovato un anno senza bollo che io non ce l'ho pagato. Invece avevo pagato tutti gli anni regolarmente. Solo che non mi sono trovato come si chiama, i bolli mi mancavano, e deve essere come ci ho portato tutti le documentazioni in campagna, si vede che ho bruciato tutto e mi hanno fatto pagare di nuovo sto cazzo, un macello veramente. Ah, io mi accomando da viaggio a Ribaldi, non sono già buttato tutto dentro una gancetta. Ma quando ho avuto la prima macchina, sino adesso, voi sempre pagati. E a me dopo 10 anni me l'hanno mandato questo pagamento. Dopo 10 anni, cazzo. E io ormai avevo la macchina nuova, e per cui anche sulla macchina nuova è successo un casino, perché c'era l'incentivo di 3 anni, non dovevo pagare il bollo, cazzo, io stavo pagando, cazzo, e è successo un macello sto. Meno male ma messo a posto bene tutta quella signora, che la ringrazio sempre, e mi è andata bene, cazzo. Perché se no fai le cose di... E poi, fatti 10 anni, il buono non te lo avrebbero più chiedere, fatti 10 anni. Perché a me io sono andato... era 10 anni e mezzo. Ma ho richiesto il buono, ma non ho richiesto. Sono salito all'ufficio entrate... Ma sono andato lì, il bollo ce l'avevo, dato mi scusi, io sono venuto qua perché mi state richiedendo il bollo dopo 10 anni. Guarda, 10 anni dovrebbe essere fuori la cosa. Se gliel'abbiamo mandato vuol dire che lo stiamo richiedendo, che è ancora valido. Così è. Allora va detto così, mi ha detto. Ha preso, ha fatto la telefonata all'avvocato, ha detto, chiami, parli con l'avvocato. L'avvocato ha detto, è scaduto questo così 10 anni, quindi non vale più. Cosa? Ormai non vale più, il signor comunque ce l'ha il bollo. E mi ha detto, ma non poteva dire che ce l'aveva il bollo, io l'avrei mandato via subito. Ah, invece mi ha detto. No, quello non scade mai, non scade mai oggi, non scade questa legge di oggi. È tutto così, non scade mai, te lo posso chiedere anche dopo 10-15 anni, capito? Te lo possono chiedere e te lo fanno pagare, cattoia. E poi già li senti anche alla TV, cazzo, cosa fanno, capito? Per cui ti fanno pagare se non sei i documenti in mano, capito? Io so, Giovanni, che fatti 10 anni, il bollo non ti vale più, perché a mio genero non aveva pagato il bollo ed erano roba di 15 anni, ma gliel'hanno richiesto quei bulli, gli hanno richiesto quelli di 6-7 anni, 8 anni gli hanno richiesto. Ma io ne ho sentito delle belle, dopo questa salita, cazzo, anche 20 anni, cazzo. Dovrebbe essere scaduti, invece non scadono queste cose, non scadono, se ne tolgono fuori non ho idea, ma la sorte, magari forse certe cose magari, e certe leggi, perché gli articoli sono tutti uguali, capito? L'articolo articolo cambiano, per cui è quello che ti fanno pagare per quello. E a me io non mi futtini. Ci abbiamo già tutti i bulli io. Quando mi hanno mandato la rete a me, che sono stato da sopra, il bullo me l'aveva ingusciato. Quindi non mi hanno futtito, non mi hanno fatto pagare nulla. Io ripeto, li ho sentiti di più di 10 anni, per cui gli hanno fatti pagare lo stesso. E secondo l'articolo, capito? Vai a cercare i gibi, cazzo, per 1000 soldi di più. Già ci sono le persone sincere, ma ci sono le... persone certamente si mangiano loro, si mangiano carte e frutti come se niente, no. E poi ora sentiamo anche sulla TV, vai, è da poco che l'hanno fatti vedere queste cose. Cercano di fare così, gente proprio che non fanno in un scoso. Era una signora, anche se si era mandata anche due paesi, si era mandata. Ha detto, se faccio una cosa, se faccio un brodo, io non ne pago, poi faccio quello che vuole lì. E non ha pagato, se ne è andata non ha pagato. Ti mandano il sequestro a casa, mi stai tranquillo. Ti mandano il sequestro a casa, to. Certe leggi, gatto, sono così, purtroppo non li puoi cambiare tu, Loro hanno ragione, secondo me hanno ragione loro, in certe leggi, capito? Per cui, a me mi hanno detto, dice, lei dice li ha pagati, purtroppo è così, gatto, però quelli che ha pagato non ritornano i soldi, capito? Infatti io stavo sempre pagando 3 anni, cazzo, gli incentivi, cazzo, invece non dovevo pagare. E cazzo, ho pagato e non mi hanno ritornato tutto. E ce l'ha rimagnato a faccia mia. E infatti, ce l'ha rimagnato a faccia tua, ce l'ha rimagnato, dice, quei bastardi. Anche se guardate, ce l'ha intaccato, dice che era contro lei, ce l'ha intaccato, dice, ce l'ha intaccato. E infatti, che questa signora è rimasta meravigliata, è stata, cazzo, e per cui brava questa signora, meno male mi ha fatto tutto quanto, cazzo, e oia, ha fatto un sacco di documenti, cazzo, tutti in regola, per cui, però mi ha detto solo questo, che i soldi che lei ha pagato non li ritorneranno mai, però da oggi sia tranquillo, è tutto a posto, e così, grazie a Dio, già me le sto conservando bene i bulli per il sicuro. Oh, io sono andato da questa signora qua, che poi prima da questa, poi sono andato da questa signora qua e quando gli ho fatto vedere il bollo e coso, e mi ha detto, dice, ma non poteva far vedere la prima, così io non l'avrei tartassato così. Diciamo, volevo sapere come andava a finire. Ecco cos'è, la signora mi ha trattato male e quindi no, e poi mi ha mandato da lì. Per forza, lui non riusciva più a coso, e se ne è scaricato perché farà sempre così fanno. Però lui siccome c'aveva il mollo, lo poteva dire prima, se ne andava direttamente, boh. E cosa volevo che gli dica? Volevo vedere come finiva. Ma da fatto così mi ha fatto. Quando avevo la Renault quell'anno, me l'hanno rifatto pagare, ho pagato, non sapevo la risulta, avevo bruciato tutto, avevo bruciato tutta la documentazione della Renault perché l'avevo versata per prendere questa macchina che ho adesso. E io in mezzo a tutti questi proiettili fatti da un butto di danni che si è bruciato, ma non faccio a pagare, ma è dovuto pagare, purtroppo è così, un anno di bollo ma non faccio a pagare. No, io di coso ciò dalla 500 che ho avuto, dalla prima macchina che è la 500 che ho avuto, sino a questa di adesso, ce li ho tutti i bulli, non me ne manca manco uno. Perché con vero c'è da conservare anche da voi tant'anni, capito? Per cui è meglio sempre avere, certo. Ma tu ti ricordi quando si usavano le cambiali, quando compravano che cosa? Beh, io ho ancora tutte le cambiali che avevo preso, la bobina e i mobili da camera da letto, da Vinoletta e via Rosella, allora, si può vedere il 57, esatto, sì. Il 57, e ho ancora tutte le cambiare ancora qua, e altre che ho preso altre cose, errate, e ce le ho tutte quasi disponibili ancora, non le ho mai buttate. Io lo stesso mi Io per me ce lo faccio mandare due, tre cassetti faccio, pieni dei documenti, di cose, di ricevute, maggio. Ah, non le ho buttate via ancora. Quando fanno 30 anni allora si rirampo, dici. Non bisogna buttarle, bisogna conservarle solo, trovare, perché fanno certi imbrogli, oggi stanno andando a forza di imbrogli, cazzo, questi italiani, tutta a forza di imbrogli, cazzo, perché se non sei attento ti fregano come niente. Allora bisogna mettere a parte tutto quello che fa, hai capito? Le ricevute bisogna mettere tutto a parte, quando ti serve ce l'hai disponibile. Sì, infatti, bisogna fare così, bisogna fare. Io ce li ho, ho tre cassette di cose bocciano a base, di documenti, ricevute, quanto venne. Ha detto che hanno fatto 30 anni allora cominciano a impazzire e buon fuoco e arrivederci. Io dall'inizio, da quando mi sono sposato, le cose le avevo prese a rate, ma sia mobili e altre cose me le avevo pagate a rate piano piano, e le cambiare che le ho tutte conservate. Dice, ma quelle non servono più adesso, non si sa mai, l'altro è detto io. Cazzo, ho dentro la borsa e magari tocca, non le tocca nessuno, ma manco, o prima o poi se ne sapete a che cosa se ve l'hanno disponibile, capito? Per dire la vanno, magari va, la cosa si piglia in contanti e basta, perlomeno io se no lo prendo in contanti, se no lo prendo a razze, capito? E per cui bisogna avere sempre la ricevuta e nascosta da una parte. Sì, no, infatti. Anche io sto facendo così adesso. Sto mettendo a parte dei soldi, come te la gioco, io me lo posso fare. Ecco cosa è. A fare così, siamo per dirci più. Siccome l'Italia sta andando a forza di brugli, sta andando a vivo. Non riesce a niente, capito? Magari Cavaldinà in Appucci riesce a fare quello che è l'intento suo, ma un povero Cavaldinà, se non finire, per carità, e da poi ti arrivi queste cose così, sei malandato, sta capa la matta di più. Io ce l'ho fatto, anche quello è, vabbè. Con ragazzi, ma è tutto canto, ci fermo tutto. Ci verdicimmo andate, se non verdicimmo accettiamo un altro buco. Piano piano, io se ho una cosa non la posso prendere, non le prendo, a razza, non prendo più nulla, non prendo più nulla a razza. Se ho la possibilità, la prendo, se no non le dico, cazzo, cosa? Lui ha chiesto la ragione, cazzo, sono con tranquilli, cazzo, bago, mi dà che ho ricevuto, per sempre conservata, e che mette il crepo io, dai, il crepo lui, cazzo, rimane da raggia. Fate così, purtroppo, andiamo con i sacrifici. Si raccappa, così, e sto, cazzo. Ma in Italia cos'è che andrà bene? Sono per una legge che andrà bene, e per cui da andare a posto di brugli, allora bisogna stare molto attenti a queste cose, per carità. Noi si fece migliorare, siamo andati peggiorendo. Ma sei brugli mattessi, sei brugli mattessi che ti fustili come niente, fino a poi ti fui, ma... Prima volta ti puoi buttare, la seconda volta non ti puoi di più. Infatti, che bisogna che ti chiamate, che ha un telefono, ma ne fate una migliaia. Lascio suonare, buh. La rubrica, ormai lo sappiamo, ma vi dico a cosa sono ignorante, per cui ti cascano come niente, quello è fatto. Però dovrebbero ascoltare queste cose, ma succede, non so. queste cose purtroppo succedono, specialmente gli anziani. Infatti. Da adesso stanno tutti promuovendo i fengosi. Però ti butti di più, allora continuiamo così e andiamo sempre ad anzi così. Quel truffatore degli alberghi, ha fuggito un gommista ha fuggito, visto là? Poi è rimasto fuggito, ci ha acciappato. Anche gli hanno denunziato. Ma tu hai denunciato anche quelli dell'albergo. Cazzo, dice non sono io quello lì. Cazzo, non bastava gli alberghi e i ristoranti. Che gommista adesso, a fuggire come se niente. Ma chissà che ci abbia che cosa. Stai non viene avanti. Mi sembra una cosa strana, ma tu ci sembra, non è uno solo, mi ha fatto un bel di alberghi, cazzo, e ha fatto un bururu con bisla, quando mai non ha ribigliato ancora. E la ciappano, prima o poi la servemma, allora pagava tutti. Chi fa il ribaglio, ma nel bar chi ci vuole, è a testa il ribaglio, costa che ha combinato, ed è tranquillo, hai visto? Ah, faccia manna, non sono io quello lì. Non è Edo. Anche che non è Edo, Ma che dato di zemmere, a me non mi care. Ma è bisseguito. Poi ha chiamato la polizia. Che quando hanno bisseguito, che lo vogliono con i fuochi. Chiamato la polizia, dice, ma qua c'è lui. Ecco adesso lo arrestiamo. Ecco cosa hanno fatto. Se pare che è pura, cazzo, non l'hai fatto niente, anche a Pionero sono sicuri del banco, già vedono, anche gente di paesi si trasforma per una cabezzona oggi, come ti si trucca lo so. Ma ti si truccano se vagini, certo. Poi lo riconoscono, tenendo. Certo. Quei testimoni, lo dice lui, io lo riconosco da lui, e tanto in giro, e come te, tu mi stai tanto per i soldi, altre cose, anche per un favore che mi bisogna, perché il calore sta attento il tonno. In albergo il Granduccio. Tanto di niente, viene un bel, che si crede. Non vale la pena, da voi non so nulla. Per truffe ve ne so, un bel in giro ve ne so. Ci sono ti fanno truffa, ma non prendesse di più. Ogni tanto non ci ha pregato fuori, va. Ogni tanto non ci ha pregato fuori, e tanto viso sempre. E tanto il truffatore viso sempre, per carità. Ma speriamo bene, va. Infatti. Speriamo che non si addocchiano a noi, perché sono già lontano. È per un tardi a tenere in tagliette, per carità, vai. Ogni tanto a qui, vai, boh, stacchi la gianna. Ma non mi interessa nulla, te le mando subito, so. No, a casa io non bisogna venire più, tramite il telefono che mi sono rompendo i capri. Ma come te vengo la scritta in Italia, non rispondo nemmanco. Vieni tu il telefono, dopo vengo in silenzioso. Ma come intendo manco la musica. Come se andavi abbigliato il telefono, molti anni fa avevo fatto la ricetta dalla Sipri avevo preso il telefono da una tradizione così tramite il telefono Bizzero dice tutto gratis, la scrizione, il contratto, tutto a posto, anche il telefono. Cazzo, dopo un mese manda un pagamento sul telefono, sto. Cazzo, apre la scrittura di smog di Barovazzi, cazzo. Dice, mi avete non siete, dice tutto registrato. Ebbene, io non ho fermato niente. Può registrare chiunque. Domani sta caduto più. Sono così, ci è registrato. Ma a me me l'aveva fatto questo coso, ma firma mia non ce n'è, quindi. Sì, ma c'ha la registrazione, è che se ne frega la registrazione, ma non c'ha la firma mia. Quindi firma digitale non vendeva e non aveva ne firma. E non ha giubagato. Ecco cosa è. Se sono giunti quello coso, c'è il signore che ferma qua, non ce n'è, quindi signore non deve pagare nulla, no, ha già pagato. Ma infatti io, ma che mi ha pagato un paese, certo, avrà diritto, e dice che lo registra, se la metta in culo quella registrazione ha diritto, certo, non c'è la firma mia, per cui io non devo pagare niente. Buonasera, mi sono rovato da qua e non rispondi allora. Ormai sta dando un numero, quando mi dai un numero non rispondia. E la giornata che tu fai, meno male mi sta fatto. Invece adesso la registrazione, adesso quando fanno la registrazione loro, lo fanno valere come la firma adesso. Allora devi pagare, purtroppo. Cazzo, che la firma, quella cosa la firma o no? Sì, ma adesso anche se loro fanno la registrazione è come che se fosse la firma al telefono, quindi deve stare attento, non fa più nulla tramite loro. Infatti, vai a venire in Sicilia, ha chiamato e tu non rispondi. Basta, ma non ci hai un paese, no? Passa per la città, come te, è stanchi, cosa per fare, è stanchi, lo battessi, ma si vede. E infatti, se vuoi venire così, ma quale rispondo più? E se già si ci fa niente di già avanti. E allora, per carità. Va bene, sto là, sentiamo domani, chiudo. Alle prossime, grazie, la chiacchierata a tutti, ci sentiamo, saluto Riccardo. Ok, ciao Gian Maria, alle prossime, ci risentiamo.